Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Stonewall Rock. Un'altra domenica di intervista, un'altra domenica in cui andiamo a parlare di un evento che si terrà sempre qui in Italia, nello specifico a Bergamo. Taglio corto, che così, dato che ce ne sarà tanto da parlare, dato che è la prima volta che lo vado ad intervistare, appunto per questo evento. E vorrei parlare il più possibile, così andare ad ammettere anche tutte le varie band che sono andato a selezionare di questa lineup. Sto parlando del punk rock raduno che si terrà tra due weekend, sostanzialmente, se non mi ricordo male, dal 17 al 20 a Bergamo, principalmente alle Donnée, un festival che non è solo festival, ma ne andremo a parlare con Andrea Mengis, per precisione, che così andiamo a specificare quale Andrea ho qui in collegamento con me. E quindi ciao Andrea, come va? Ciao, tutto bene? Tutto bene? Sì, abbastanza. Tutto bene. Dai. Tutto bene. E quindi, allora io adesso, giusto introduzione, giusto così, tanto per fare una battuta come la volta scorsa. C'era questo discorso la volta scorsa dello sfondo di questo bellissimo acquario che avevi detto che eri bene o male un attimo sceso dai tuoi, in questo momento ho scoperto una cosa che non sapevo che si può dire, no? Oppure da tenere, ok, se nel cinema in cui lavori, quindi è un'altra versione. Prima sì, ho un proiettore, vabbè, questo ho un proiettore vintage alle mie spalle, in realtà non lo usiamo neanche più, è di quelli proprio per proiettare le pellicole di una volta, non so se si vede il dettaglio, ma sì, perlomeno da qua sì. bene o male si vede, quindi buono a sapersi, anche così un pezzo, anche se non viene usato, è un pezzo di storia, diciamo, per modo di dire, no, giustamente. Comunque, dicevo, ci siamo sentiti qualche settimana fa in cui ti ho chiesto appunto per venire qui in trasmissione per parlare appunto del punk rock raduno, però prima di parlare del punk rock raduno ho una domanda introduttiva che penso di averti fatto la volta scorsa quando avevamo parlato appunto di punk rock addio dei Mengis, e ti chiedo semplicemente, sicuramente sai che i NoFX si sono sciolti, quindi cosa sono per te i NoFX? No, i NoFX non sono mai stati tra i miei gruppi preferiti. Okay. Mi piacciono tante loro canzoni, le ho ascoltate ovviamente negli anni, ma non sono per esempio mai andato a vederli dal vivo. Ah, ok. Buono, basta, finito, a posto. Tranquilli. Breve e conciso, solitamente cerco di dire, detto, col dono della sintesi cerchiamo di parlare cosa sono per te, a me non mi interessano, a posto, finito così, benissimo. Ho il libro e non l'ho mai letto. Ok, no, vabbè, ho fatto il libro e non l'ho mai letto. Ci può stare. Ognuno giustamente ha un attimo le sue preferenze, giustamente. Comunque, andando a snocciolare un attimo il discorso di quello che è il punk rock raduno, appunto, io ci sono venuto per la prima volta lo scorso anno, perché riuscivo finalmente a venire in questa nella scorsa edizione, quella, la giornata dei The Jasons, giusto per capirci, che era quello del sabato, se non mi ricordo male. E ti dirò, effettivamente mi è dispiaciuto non averci passato altre edizioni, perché l'atmosfera che si va a percepire è veramente di amicizia e di tranquillità, e quindi ottimo lavoro. Quindi, nonostante il discorso che riuscite a mantenere il festival gratuito, bene o male, per quanto riguarda le Donnée, quindi io tanto di congratulazioni. Ottimo lavoro. Ah, ti ringrazio. No, beh, il festival è lo spirito del festival del punk rock raduno è sempre stato quello. Non abbiamo un biglietto d'ingresso, non abbiamo grandi budget, ma lo consideriamo come un festival molto puro, molto DIY, e cerchiamo di fare in modo che l'atmosfera sia più importante di chi c'è sul palco, ok? Perché fare un festival dove inviti dei grandi gruppi li paghi tanto, metti il biglietto, speri che venga tanta gente per avere un profitto, è un modo di lavorare che tanti sanno fare, tanti sanno fare bene. Per quanto riguarda il raduno, invece abbiamo scelto proprio tutta un'altra strada. Partiamo dal basso, coinvolgiamo più persone possibili, facciamo festa, facciamo conoscere la nostra scena anche un pochino magari al di fuori dei soliti noti, perché poi la nostra scena comunque si sta piano piano stringendo, e quindi abbiamo dato sempre tanta attenzione all'esperienza del festival di per sé e non solo alla E rientriamo in diretta, scusate un attimo per questo, per chi magari sta ascoltando la diretta della radio, c'è un piccolo problema tecnico che penso di aver risolto, adesso non ho capito bene quale potesse essere, probabilmente una piccola interferenza. Comunque, vai un attimo a spiegare quello che è il punk rock raduno, non solo a livello di musica, perché è un discorso che si va a creare su tutta la città di Bergamo, se non ricordo male. Quindi ci sono eventi che partono dal primo pomeriggio in posti chiusi, ci sono diversi contest di skate, se non mi ricordo male, c'è un discorso di tatuaggi, quindi vai pure, esponi tutto quello che c'è da esporre. Abbiamo sempre cercato di coinvolgere la città di Bergamo e anche non le persone direttamente che fanno partire con la scena punk, ecco. Ovviamente Edoné è il pavello principale, ci sono due palchi, è un bel parco, c'è tanto di prospettivo dove puoi mangiare, dove tanti grandi, abbiamo le nostre banchette, eccetera, ma in città ci sono altri eventi che partono dal mercoledì sera, dove il festival inizia alle 17, giovedì. Mercoledì 16 abbiamo già comunque la Welcome Night in un altro parco che si chiama Oasis, ci sarà già un bel evento. Poi durante i pomeriggi, in realtà il venerdì fino al mattino, si comincia a andare in altri locali, sono bar, club, dove facciamo dei concerti, dei set, quindi comunque c'è tutto un percorso che si vive il festival, perché lungo i 4 giorni se lo può fare, poi ci si muove tra città a piedi, è molto bello. In realtà c'è poi anche un trenino che porta le persone a sabato in un barco dove ci sarà un altro concerto a sorpresa, e questo sarà un sabato verso l'ora di pranzo. Venerdì e sabato c'è un studio con 4 tatuatori che fanno parte della scena punk, Maio, Crisi, Valentina, Lucia, Cinta. Questi tatuatori lavoreranno 2 giorni anche con dei bottini, non solo prendendo appuntamenti, quindi un tattoo studio è già dedicato a raduno per il testo. Insomma, più ci sono vari eventi collaterali fino a presentazioni di libri, perché presenteremo anche 2 libri quest'anno a raduno, uno è quello del mio gruppo, uno invece sul vivo fatto del Nation. C'è veramente tanto da fare, ci sono le attività per i più piccoli, addirittura ci sono i DJ set notturni dopo i concerti, per cui è una cosa proprio molto immersiva per 4 giorni in fila. Ok, quindi ha dato tutte le età, quindi non diciamo che non è solo principalmente per chi ascolta effettivamente punk rock, ma comunque è un modo anche per potersi divertire non solo a livello punk rock, anche a livello di famiglia. Quindi anche questo è un'altra cosa che fa molto piacere. Dici, magari io ho una famiglia, ho un bambino relativamente piccolo, però che non rompe abbastanza, cioè non rompe troppo le balle, quindi può tranquillamente venirci, si può comunque divertire magari con altri bambini e appunto stare nell'area dei bimbi e quant'altro. Quindi noi abbiamo vissuto il punk rock con tutti gli estremi del caso per 30 anni. Oggi 2025 la scena è comunque composta da persone che hanno comunque già un'età, e tanti hanno famiglia e hanno piacere di portare anche i figli, che siano ragazzini o bimbi, in un festival punk rock dove siamo riusciti a essere piuttosto sicuro e molto inclusivo, per cui non c'è finora non c'è stata violenza, e insomma episodi spiacevoli. Questa cosa ha fatto sì che tanti dei partecipanti alla festa continuino a tornare gli anni anche dall'estero. Poi ovviamente uno lo vive come vuole, ma il bello di Teneraduno è che può essere vissuto a tutti i livelli. E a noi piace l'idea di far conoscere la nostra scena a dei ragazzini, non piace l'idea di far conoscere la nostra scena a dei bambini, ma perché? Perché comunque sono quelli che veramente potranno agire di te, portare della passione, portare delle idee nuove, portare delle band fresche. Una cosa che facciamo, che forse non sai, al sabato sera, mentre sul pale si alternano gli headliners, tra un gruppo e l'altro avremo un altro palco con dei gruppi che sono rigorosamente underground. Abbiamo chiamato Rookie Stage e abbiamo delle band di 15 anni che magari anche non sono molto esperti oppure non sono ancora molto conosciuti, ma gli diamo direttamente il pubblico pieno, il pieno del sabato sera per divertirsi. E abbiamo capito che alla fine anche noi abbiamo voglia di vedere gruppi nuovi e band giovani, no? Sì. Quando ti finisce a guardare 5, 10, 8 band, se sai che sono i tuoi amici, li hai già visti 100 volte, sono dei cinquantenni e quel tizio lì fa il commercialista e poi sta sul palco a fare il punk, ti sei rotto le palle a un certo punto. Quando arriva un ragazzino di 15 anni che non sa un cazzo di te e tu non sai un cazzo di lui e provi comunque un brividino di dire cazzo, cosa mi suona questa adesso, cosa succede, e quindi ci si diverte, e questa cosa qua secondo me è molto stimolante per il festival. Sì, no, giustissimo. Penso ad averlo effettivamente visto anch'io lo scorso anno, appunto, questo discorso di side stage, appunto, dove far suonare le band super emergenti. Mi attacco a questo discorso con una band che probabilmente è passata da come emergente al punk rock ad uno, che sono gli Useless 4, se non sbaglio, che anche loro sono molto molto certo, giovani. Certo. E sono usciti appunto. Sì, molto giovani. Vai. No, dico, sono effettivamente un gruppo molto giovane che ha suonato anche nel palco Under 20 del Raduno, hanno fatto un esordio a Raduno già 2 anni fa e adesso hanno comunque un primo disco fuori che è fantastico e sono super divertenti, super carichi e li facciamo suonare di nuovo il venerdì sera, se non sbaglio, io confermo perché non voglio dare informazioni sbagliate. Esatto. Il 18. Sono il gruppo che comincia le danze sul palco delle Donee alle 19 del venerdì. E rientriamo sempre nella prima parte del Stormo Rock, dove stiamo andando ad ascoltarci un po' quello che sarà effettivamente il punk rock raduno di quest'anno e andare a spiegare effettivamente che cosa c'è all'interno del punk rock raduno. Band emergenti, band band emergenti, band già fermate. E la cosa che ho notato dalle prime edizioni è questo discorso che il punk rock raduno era nato un po' come un filone del Ramones Core, chiamiamolo così, principalmente chiamare band che si affermavano su quella branchia di genere del punk rock. Negli ultimi anni vedo che state un attimo sistemando il tiro, nel senso chiamando band un pelo differenti. Infatti quest'anno saranno i Make War, Bull Brigade, Placcaggio, che con Ramones Core sì, ma il giusto. Ma guarda, in realtà non c'è stata un'evoluzione in quel senso, perché se consideri la nostra primissima edizione è nata con, sì, c'era magari un gruppo in mezzo, ma in realtà avevamo Liberty Shakes, che sono un gruppo da rock, e avevamo facciamo un pochino più la mostra che gira intorno a Startup Record, Monster Zero Record, però devo dire che abbiamo sempre cercato di coinvolgere altre realtà diverse, perché se no viene anche da dire che vale, non possiamo fare 4 giorni di rubinetti uguali. E poi un'altra cosa, noi viviamo la scena comunque di ispirazione da Mons, quella anche, diciamo, a chi piace la Lookout Record, a chi piace quel punk rock anni 90 lì, però ascoltiamo anche altri, ci piacciono altre cose. In questa diventa, facciamo sempre una selezione, secondo me, perché se ti piace quel genere hai anche poi delle sorprese, delle cose un po' diverse, non ci si annoia. No, no, figuriamoci, giustissimo, dare spazio, era giusto un appunto, diciamo, per modo di dire, che avevo notato io principalmente, un po' vedendo le line-up che bene o male si venivano sempre a formare del festival, però comunque giustamente per dare un po' spazio. Certo. Vabbè. È chiaro anche che una volta che hai fatto venire il Pierce, cioè, parlando della nostra scena, praticamente ogni gruppo, ognuno dei nostri gruppi preferiti di quella scena lì è già venuto, e quindi comunque andiamo poi a ripeterci continuamente e piano piano ci siamo anche aperti ad altre cose. Parlo degli headliners, però ci sono sempre stati, gruppi diversi alla nostra scena. Cioè è un festival comunque meno monotono di come viene percepito, secondo me. È ovvio che rispetto a tutte le altre realtà, altri festival che vengono organizzati in Italia e in Europa, noi siamo la bandiera di quella scena lì, una scena di cui aspettava la roba di caos. Ok, ok. Buono a sapersi, buono a sapersi. E rientriamo nella seconda parte di Lestormo Rock, sempre collegato qui con Andrea per quanto riguarda il punk rock raduno. Un discorso di punk rock raduno che l'altra, adesso non mi ricordo se ne abbiamo parlato, perché tra tutte le varie cose che abbiamo già un attimo snocciolato, già detto di line up e come un po' va a funzionare, per assurdo il main event, quello che bene o male si va a svolgere all'Edoné, è gratis, e nelle altre parti bene o male c'è un piccolo contributo, ma veramente irrisorio. Quindi dopo 8 anni è veramente no? Tutto gratis anche dall'altra parte. Ok, allora perché non so, perché allora adesso te lo chiedo direttamente io, perché l'anno scorso nelle varie cose che si proponevano al Punk Rock Raduno c'era qualcosa che costava tipo 5 euro, era qualcosa nello skate park, qualcosa in acustico nel primo pomeriggio, o mi ricordo male io? Perché ma non credo 5 euro, no, era gratis. Era tutto ok. Allora a posto, mi ricordo. Cos'era il contenuto per il trenino? Ma... Era. No, mi dispiace contraddirti. No, no, ma che figura. Anzi, guarda. Guarda, tanto meglio, tanto meglio, figurati, non è quello il problema, perché magari, ti ripeto, era magari un discorso che avevo visto o sul sito che c'era qualcosa, però comunque, torniamo al discorso principale, dove è tutto effettivamente gratis, quindi dopo 8 edizioni continuare a tenere il festival gratuito non è sicuramente facile, quindi per quello che puoi, come riuscite a mantenerlo gratuito? Lo so. Da spiegare perché tanto è una sbattimento. Magia, è una magia. La magia, quindi ok, la risolviamo con la magia. Se riusciamo a finanziare il con. Intanto, vabbè, ovviamente il festival sa che essendo un evento gratuito e essendo un evento organizzato da volontari, quindi comunque dove non c'è un diretto scopo di lucro, le persone vengono, sono tanti punk che fanno parte della nostra scena, sono entusiasti e vogliono supportare. Come supportare il festival? Prima cosa, si mangia, si beve in Edoné, di conseguenza, tra l'altro, cioè, le cucine spaccano perché fanno burger, si mangia, si beve in Edoné, si supporta il festival. Si compra il merchandise del festival, abbiamo le magliette, le felpe, le toppe, gli adesivi, la fanzine, ci sono un sacco di modi per supportare il raduno. Facciamo la compilation un LP con una canzone di ciascuno dei gruppi che partecipa al festival, donano di solito una canzone in esclusiva per compilation, e anche questa. D'altro canto, magia è anche dovuta al fatto che della nostra scena la magia vengono già come e quindi i gruppi quando noi li invitiamo riusciamo anche tante volte a contenere le spese perché il conto come siamo volontari noi al festa anche tante belle comunque vengono al festa dal dire vado a farmi vedere o vado a farmi pagare. Di solito è vado al festival perché è il festival della mia scena, vado al festival perché è di famiglia di chi durante l'anno si sbatte in tutte le città d'Italia, d'Europa. Adesso vengono anche tante persone dagli Stati Uniti, ci saranno abbiamo già una band giapponese sicuramente nel cartellone e vengono comunque amici dal Giappone, sono venuti durante la storia del raduno, è praticamente venuta gente da ogni parte del mondo. Comunque è un festival che è molto più internazionale rispetto a tanti eventi che facciamo in Italia, infatti noi sul palco parliamo inglese quando presentiamo le band o la nostra comunicazione è tutta in inglese, ma non è perché vogliamo fare i figli, è perché veramente metà delle persone che si trovano in Dorè in quel momento lì sono tedeschi, spagnoli, olandesi, austriaci e quindi è normale che poi diventa subito festa internazionale. Certo. E questa è la magia. Questa è la magia e te ne potrei dire tante perché sono 10 anni di magia, quindi siamo sempre più entusiasti, sempre più sorpresi di vedere questa cosa che è nata con passione e con aspettative normali di persone che avevano voglia di fare un evento, che è diventata una cosa che comunque adesso coinvolge tanta gente, quindi comunque funzionare. Perfetto, perfetto. Guarda, non volevo essere sicuramente una domanda scomoda, mi raccomando non vederla come un'incalzata, perché anzi, come ti dicevo, tanto rispetto per riuscire a mantenere il festival dopo 8 anni ancora gratuito. In questa seconda parte... Sì, no, noi siamo felici di parlare di questa cosa, siamo felici proprio perché il festival si tiene in piedi con la passione e il supporto della nostra scena, non si tiene in piedi su diciamo delle logiche economiche del mercato musicale, altrimenti non ci faremmo. Ok. Saremmo competitivi. Certo, certo, giustissimo precisare tutto quello che c'è appunto da precisare. Continuiamo con la diretta, sempre in collegamento con Andrea Mengis per quanto riguarda il Punk Rock Raduno 17, 18, 19, 20 di luglio alle Donè di Bergamo, ma non è solo quello, ovviamente andatevi a vedere tutto il programma perché c'è veramente tanto da fare già dal primo pomeriggio in tutta la città di Bergamo. Adesso ne avevamo parlato un attimo prima di tante band che possono essere appunto emergenti italiane, quindi la cosa bella che ho visto che comunque riuscite sempre a mantenere è questo discorso di riuscire a bilanciare sì le band conosciute ma anche quelle piccoline, quindi anche questo è un altro grande punto favore per quanto riguarda il Punk Rock Raduno. E come dico spesso anche in altri festival bene o male che ho intervistato quest'anno, che possono essere il Venezia Hardcore e Lowell Fest, se non conoscete le band andatevele comunque ad ascoltare e vedere perché c'è anche qui da imparare di come mio, e te lo dico io personalmente, ogni volta che mi vado avere la line up purtroppo e fortunatamente diciamo, perché sennò si vanno sempre a ripetere gli stessi nomi, qualcosa di nuovo io lo trovo sempre che non conosco, quindi anche questo è molto un altro molto punto a favore per quanto riguarda il festival come altri che ce ne sono qua in Italia, quindi anche questo congratulazioni per questo. No grazie, ma quello è giusto, grazie, ma comunque dipende anche dal fatto che non è che puoi conoscere tutte le band, anche la scaletta è comunque frutto di lavoro di più persone, ok? Quindi può succedere, cioè succede tutti gli anni che ci sono delle band che io per primo magari non conosco perché magari sono state, cioè ci ha lavorato sopra qualcun altro della family del raduno e ha portato una band e io magari ho detto sì, ok, facciamoli, però poi alla fine ti scopro veramente sul palco anch'io, ma è normale quello è bello. E poi devo dire una cosa su Raduno, ovviamente il fondatore tra virgolette del festival siamo io e Franz Barcella, okay. Franz è comunque una persona che lavora nell'ambito insomma dell'organizzazione dei concerti, degli eventi, nel booking da una vita, ok? Quindi anche la sua esperienza pesa all'interno insomma della buona riuscita di questo festival. Okay. Non sono solo io, la family siamo in tanti, e abbiamo una mega chat, parliamo tutto l'anno e ci diamo dritte tutto l'anno. È bello così, è giusto scoprire gruppi nuovi. Ok, ok, buono sapersi. Parlando sempre ovviamente del punk rock raduno, un discorso che volevo un attimo anche enunciare per non tenerlo solo semplicemente per quanto riguarda il fuori onda che abbiamo avuto prima, era questo discorso simpatico che appunto è nato purtroppo casualmente lo scorso anno di questa sala in disco, dove effettivamente in realtà è stato un ripiego all'ultimo, quindi ti chiedo semplicemente di ripetere un attimo, che così era molto simpatica e carina questa cosa. No, beh, in pratica a partire dalla mezzanotte, sin dalla prima edizione del raduno, abbiamo fare festa almeno per altre 2 o 3 ore. E poi le feste si spostano, diciamo, in vari altri festini improvvisati in giro, magari alla casa nella zona, quindi nascono molte situazioni. Però dentro Edoné abbiamo sempre avuto un DJ set il venerdì, sabato notte, giovedì notte, che andava a tutto volume, perché poi a un certo momento abbiamo alle feste la situazione del genere, no? I bambini sono a letto, via. E quindi in pratica l'anno scorso però c'è stato un problema proprio di permessi, perché il festival viene comunque controllato e Edoné non poteva permettersi di pagare multe, e di conseguenza non si poteva fare DJ set. La soluzione last minute sono state le cuffiette per fare la silent disco, e a me l'idea così non piace, non ero particolarmente contento. Poi ho capito che comunque davvero se hai voglia di divertirti va benissimo anche la silent disco con le cuffiette. Devi dire, ascolti la musica che ti piace, segui i tuoi amici, è uscito veramente molto bene, ma questa è la magia secondo me del nostro festival. Esatto, no vabbè, quindi tu... E non siamo lì per fare le cose vere, per divertirci e far conoscere la nostra passione e comunque lavorare nel punk e nel DIY, cosa che facciamo da 30 anni, do it yourself è la nostra... il nostro credo. Ok, giustissimo. Come dicevo, quasi gli sgoccioli di Le Stormo Rock, speciale punk rock raduno, dove ci stiamo andando ad ascoltare varie band che suonano all'interno del festival e a spiegare un po' cos'è il festival, come si svolge un po' il festival, per chi non ci fosse mai stato comunque. Per chi lo conosce bene o male sa già che è un piccolo paradiso italiano, per modo di dire, no? Una domanda che meno male ovviamente vado a fare un po' tutti i festival in questo momento, perché sono 1 o 2 anni che mi sono cimentato ad intervistare anche vari eventi che si succedono nell'estate italiana, perché possa essere qui un po' a Bologna oppure in altre parti, come dicevo prima, Venezia al Corlo, Wellfest, in questo caso Punk Rock Raduno di Bergamo. È un festival sicuramente che si va a organizzare da un anno all'altro, quindi finito questa edizione cominciate già un po' a vedere, a tastare il terreno per il prossimo anno? Avete già qualche conferma per il prossimo anno? Non ti chiedo chi ci sarà, perché ti lascio ovviamente la curiosità per chi vuole saperlo, però giusto da sapere se vi state già muovendo per il prossimo anno. No, di solito noi iniziamo a lavorare verso settembre, cioè il festival c'è in luglio, tempo che si fa il festival e lo si chiude tra virgolette, perché poi comunque anche dopo c'è da fare della comunicazione, c'è magari da battersi intanto una pacca sulle spalle tra tutti i volontari, e poi una volta che si chiude il festival per un mesetto non ne vogliamo sapere niente, e poi però si ricomincia subito, sai, arriviamo sempre molto stanchi perché siamo comunque dei cazzoni mal organizzati. Quindi è ovvio che l'ultimo giorno, l'ultima sera, siamo lì dicendo no, non lo voglio mai più fare, sono stanchissimo. Ma poi cosa succede? Che dopo 5 minuti comincia a dire sì, però è stato divertente, dai, non vedo l'ora che sia l'anno prossimo, e comincia il conto alla rovescia. Di conseguenza a settembre di solito cominciamo già a sentire qualche band a fare booking. Può capitare magari che un gruppo che sentiamo quest'anno ci dice no, vediamo il prossimo, rimaniamo in parola. Però no, sull'anno prossimo non abbiamo headline o altro da confermare. Ok, quindi giustamente un minimo di stacco da una... Da un'edizione all'altra, in modo da potersi un attimo rilassare, dici ok, bello, figo, però mi serve un attimo un po' di tempo per me stesso, per riuscire ad assorbire quello che ho fatto e magari rimettere la testa per quello che sarà il prossimo anno. Comunque ti dico, se tu dici il discorso disorganizzati, un po' cazzoni così, ti dico, a livello di pubblico non sembra, quindi va bene lo stesso così. No, guarda, sai cosa? C'è da dire che della squadra, diciamo, che lavora al festival, anche dal punto di vista, cioè chi lavora sugli aspetti tecnici proprio di palco e concerti, chi lavora sulla comunicazione, chi lavora sul merchandise, chi lavora sulle logistiche, sono tutte persone comunque che vengono hanno già delle professionalità notevoli. Che viene fatta per incisione e di conseguenza può succedere che ci arriviamo poco fiato corto. Poi io devo dire la verità, al primo anno io e Franco facevamo tutto. Dieci anni fa, quando abbiamo fatto il primo raduno, effettivamente eravamo noi che abbiamo organizzato tutto, e poi durante i concerti eravamo davanti al computer a postare le cose, cioè insomma era veramente una faticaccia. Adesso posso dire che ognuno più o meno sa quello che deve fare, e riusciamo anche a goderci un pochino il festival di per sé. Oh, beh, giusto, vuol dire che mi posso bere una birra e guardare un gruppo dopo che ci ho lavorato tutto l'anno. Io e Franco ci mettiamo e diciamo oh, vado a poco, come stai, uscendo bene, e spero che quest'anno sia così, mi auguro. Bene, buono a sapersi. Io, come dicevo, bene o male sono un attimo agli sgoccioli, quindi ho l'ultima domanda da farti, in modo da poter mettere gli ultimi due band di fila che si andranno a chiudere la scaletta per quello che ho preparato. Una con i Packers, con il loro album Summer Night Secrets, e ci andremo a ascoltare In Auge, e Helen Love con Yeah Yeah, We Are Helen Love con Punk Boy. Ma prima... volevo chiederti la domanda solita scarica barile. Quindi c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti dire? Ma guarda, come dicevo prima, quello che avrei voluto dire è che c'è talmente tanto da raccontare di questo festival, e stavo guardando il programma mentre parliamo, ce l'ho qua aperto davanti, e ci sono così tante cose di cui si potrebbe parlare già un bel po', che posso solo dire di andare a leggersi il programma su pancrocaduno.com. Abbiamo la mappa della città scaricabile, poi ci sono vari deadline anche che si trovano già in giro per Bergamo, ci sono segnate le location, c'è cioè il programma, e ci sono un sacco di iniziative, è veramente difficile dire tutte. Per esempio quest'anno abbiamo fatto una cosa dove chi va in alcuni negozi selezionati in giro per Bergamo con la maglietta del Pancrocaduno nuova o delle edizioni precedenti riceve uno sconto sull'acquisto. E queste sono cose che comunque in città, a Bergamo, 10 anni fa potevano pensare oddio, arrivano i punk, faranno casino. Adesso ci sono persone che ci fermano e ci dicono oh, quando è che fate il prossimo raduno, o oh, grazie che fate il raduno, ma persone che non hanno niente a che vedere con il punk, comunque ci siamo fatti voler bene, e il pubblico del raduno, le persone che sono venute da tutta Europa si sono fatte voler bene, cioè siamo considerati gente che siamo gentili e beviamo. Questo è un po' più o meno, in città sono contenti, siamo gentili, siamo appassionati, beviamo, ci divertiamo, e boom. Anche a Bergamo comunque abbiamo sempre avuto proprio un bel riscontro. Questo, scusa, mi hai dato spazio per dire le ultime due cose, sto andando a ruota libera, ma così è. Vorrei veramente dire che c'è tanto da dire su questo festival. Ok, magari ti richiamo il prossimo anno, che così saranno delle altre novità per quanto riguarda appunto il festival. Io intanto ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo alla prossima. Grazie a te. Ciao. Va benissimo, buona serata, ciao, grazie. Grazie, ciao. E come di consueto, buon punk rock a tutti.